Buon pomeriggio a chi ci ascolta, terza puntata di Radio Tagadà, salutiamo Spazio Dissonanze che va in onda prima di noi e partiamo con la diretta da Milano, sempre dallo spazio comune Cuore in Gola. Sono le 14.32, siamo pronti ad iniziare, ricordiamo i nostri contatti, se volete scriverci alla mail potete farlo scrivendo a radiotagadà@autistici.org, siamo anche su Facebook ed Instagram, potete scriverci via Telegram al 351-877-6512 e potete ascoltare la diretta sia sullo streaming, sul player di Ascolta la Diretta di Radio Onda d'Urto, sia sul nostro blog cronachediregime.noblogs.org cliccando Ascolta la Diretta, in FM a Milano sul 98.0, a San Giuliano Milanese 88.0 e ricordiamo anche sul DAB più il Digital Audio Broadcasting cercando il canale Onda d'Urto. Allora, oggi parleremo della situazione di Alfredo Cospito, detenuto anarchico che rischia l'ergastolo ed attualmente ristretto nella sezione 41 bis del carcere di Bancale a Sassari e di sciopero della fame da 10 giorni. Poi ci collegheremo con due compagne per parlare di alcune iniziative svoltesi a Milano un paio di settimane fa. Con una parleremo della presenza in Piazza Diaz il 15 ottobre contro il memorandum Italia-Libia e con un'altra invece ci faremo raccontare del corteo Donna Vita Libertà a sostegno della resistenza iraniana, corteo che si è svolto il 16 ottobre partito da Porta Venezia. Come al solito, sport popolare, notizie dal web, iniziative, Radio Tagadà, aneddoti di musica, strada e cronache di regime. Ora partiamo con un po' di musica, vai Daina! E abbiamo iniziato questa puntata ascoltando i Vampire Weekend, gruppo indie rock statunitense di New York che inizia la propria attività nel 2006. Questa canzone era A Punk. Allora, torniamo appunto in diretta, come già detto prima, e parleremo con un compagno nello studio improvvisato di Milano dello spazio comune Cuore in Gola. E appunto, come detto, parleremo un po' della situazione di Alfredo Cospito. Ciao e benvenuto a Radio Tagadà. Ciao a tutti. Allora, niente, volevamo appunto chiederti intanto la situazione attuale di Alfredo, se ci vuoi spiegare un po' meglio cosa sta accadendo. Sì, allora Alfredo, come penso molti già sappiano, è un compagno anarchico che sta scontando una condanna a 20 anni per la gambizzazione dell'amministratore delegato di Ansaldo Nucleare e attualmente rischia una condanna per strage politica, che è un reato che prevede come unica pena l'ergastolo, per un'azione che non ha commesso né, non ha provocato né morti né feriti. E tra l'altro ricordo che è un reato che non è mai stato usato nemmeno per la strage di Bologna, e questo fa sicuramente notare come lo Stato abbia due pesi e due misure quando si parli di un rivoluzionario. Alfredo si trova dallo scorso 5 maggio in 41 bis nel carcere di Bancali in Sardegna. Il 20 ottobre ha annunciato, nel corso di un'udienza presso il Tribunale di Sorveglianza, di aver iniziato uno sciopero della fame ad oltranza per opporsi al regime detentivo al quale è sottoposto. Ed emblematico di cosa significhi stare a 41 bis è proprio il trattamento che è stato riservato ad Alfredo durante quest'udienza. Infatti, come impone il regolamento del 41 bis, si è svolta in videoconferenza e ai compagni fuori è stato impedito di assistere all'udienza. E appena Alfredo ha iniziato a leggere la dichiarazione dello sciopero della fame, questo gli è stato impedito togliendo il volume al suo audio. E per gli avvocati inoltre è impossibile diffondere il contenuto di questa dichiarazione senza incorrere in pesanti conseguenze penali. E prima di parlare più nello specifico di Alfredo, magari farei due parole su cos'è il 41 bis, che è un regime che è stato introdotto nell'86 come uno strumento da usare semplicemente in maniera emergenziale e che è stato reso permanente a partire dall'omicidio di Falcone nel 92. Lo scopo di questo regime penitenziario è il completo isolamento del recluso, che tramite quella che di fatto è una deprivazione sensoriale, vuole essere spinto alla dissociazione e alla delazione. Le regole del 41 bis sono rigidissime e prevedono il divieto di ricevere libri, che possono essere acquistati solo attraverso l'amministrazione penitenziaria, facendo la cosiddetta domandina, e in cella comunque se ne possono tenere fino a un massimo di 4. È concessa solo un'ora al mese di colloquio con vetro divisorio, e se il parente non può spostarsi, cosa che accade molto spesso, in quanto i reclusi sono sempre mandati lontani dai luoghi di origine, sono concessi 10 minuti di telefonata mensile da effettuare comunque all'interno di una caserma o in un carcere, e tutti i colloqui ovviamente sono registrati. Le ore d'aria sono solo 2, con al massimo altri 3 detenuti che cambiano in continuazione per impedire che si creino delle relazioni con gli altri prigionieri. E la cella è composta solamente da un letto, un armadio, uno sgabello, uno specchio di plexiglass, un televisore agganciato al muro e 2 pentole. Anche le foto dei parenti e le immagini che si possono appendere alle pareti hanno un numero limitato. Tutta la posta è sottoposta a censura, sia in entrata che in uscita, e i giornali vengono sempre consegnati ritagliati e con grossi ritardi. E le sezioni non sono gestite dai semplici secondini, ma dai GOM, che è il reparto che normalmente si occupa della repressione delle rivolte in carcere e che sono tristemente famosi per i pestaggi di Bolzaneto. Istituiti da D'Amato, se non sbaglio, sì, dal governo di centrosinistra, comunque fine anni 90. Come spesso accade quando viene introdotto un pesante sistema repressivo, è stato prima annunciato come strumento per combattere il nemico pubblico del momento, che in questo caso specifico era la mafia, e poi allargato a sempre più categorie. Infatti nel 2015 entrano per la prima volta dei compagni nel 41, scusate, nel 2005 entrano nel 41 bis 4 compagni comunisti del Partito Comunista Combattente, che sono Morandi, Mezza Salma, Lioce e Diana Blefari, e proprio quest'ultima morirà suicida dopo essere stata provata pesantemente da questo regime detentivo e dopo aver saputo di essere stata condannata all'ergastolo. E dopo i comunisti adesso è venuto il turno degli anarchici, e Alfredo, che è già in carcere da 10 anni nelle sezioni di alta sicurezza, è stato scusate, è stato trasferito in 41 bis non solo per ciò che è accusato di aver commesso, ma anche, se non soprattutto, per il fatto che in questi 10 anni di prigionia non ha mai tagliato i legami e la solidarietà con i compagni fuori, e non ha mai smesso di lottare e fare uscire le proprie idee tramite la pubblicazione di libri ed opuscoli. E dopo 10 anni di fallimento, lo Stato ha deciso di usare il regime detentivo più duro a sua disposizione nel tentativo di annichilire un compagno che appunto non ha mai fatto un passo indietro, non ha mai smesso di lottare. Sì, grazie della panoramica generale, abbastanza, vabbè, un po' tutte lo sanno di quanto il 41 bis, per definire una parola, sia un regime di tortura perenne nei confronti di chi se lo deve, insomma, subire. E comunque questa è la situazione dentro, quindi c'è stata la decisione, questo compagno, di portare avanti uno sciopero della fame, probabilmente ad oltranza, e comunque fuori si stanno un po' smuovendo anche le acque, e c'è stata anche un'iniziativa in solidarietà ad Alfredo a Milano il 22 settembre, poi ci sono state anche svariate iniziative fuori. Se hai voglia di raccontarci com'è andata l'iniziativa di settimana scorsa a Milano in Porta Genova. Sì, allora, appunto a Milano in Porta Genova, quindi una zona abbastanza centrale della città, abbiamo organizzato una serie di letture e di interventi sul tema del carcere del 41 bis. Sono state lette parole di Alfredo, ho spiegato in cosa consiste questo regime detentivo e lette testimonianze anche di chi è stato detenuto sull'isola dell'Asinara. E lo abbiamo fatto in una piazza centrale perché anche solo un'iniziativa divulgativa nella quale si spiega cos'è questo regime e smontando anche la retorica del tanto ci sono i mafiosi che sciolgono i bambini nell'acido, ma fare capire realmente cosa significhi stare in 41 bis e portare all'esterno queste atrocità è fondamentale per creare una breccia nel muro dell'isolamento che lo Stato vuole creare intorno ai prigionieri. È sicuramente sempre molto, molto complicato farlo per appunto questi decenni in cui si è parlato, questi decenni in cui i media hanno parlato del 41 bis come unico strumento per la lotta alla mafia, ma l'iniziativa è comunque andata bene, la gente che si fermava ad ascoltare comunque rendendosi meglio conto di cosa significa, fermandosi per la prima volta a pensare al 41 bis, effettivamente si rendeva anche conto di cosa significhi. Va bene, allora, da quello che ho letto io un po' in giro, insomma, non è solo Alfredo ad essere entrato in sciopero della fame, ci sono anche due compagni, un compagno che è recluso in un carcere italiano, Juan, di cui abbiamo parlato anche settimana scorsa, che appunto ha preso 28 anni in primo grado per essere ritenuto colpevole di un attentato alla sede della Lega a Villorbo con degli ordigni piazzati fuori, ma anche un compagno che è in galera in Francia, Ivan Alocco, ha iniziato lo sciopero della fame in sua solidarietà. Come dicevi tu, è molto importante provare a dare voce a chi non ne ha in questo momento, quindi anche solo scendere in piazza, anche solo in 10, in 15, in 20, con uno striscione, cercare di dare voce a chi lo Stato sta cercando di seppellire vivo. Ci sono stati anche comunicati, insomma, da tutta Europa e non solo, in solidarietà ad Alfredo, ma è una situazione che era abbastanza interessante. Era appunto oggi, ricordiamo che Alfredo è detenuto nella sezione 41 bis e carceri bancali a Sassari. Proprio oggi a Sassari c'era e in questo momento è in svolgimento un corteo in solidarietà appunto ad Alfredo e per cercare di far passare che in quella città appunto c'è una sezione dove la gente viene interrata viva e muore tra quattro mura di cemento. Quindi, se ci volevi dire due parole riguardo ad alcune iniziative di solidarietà, se le sai, se su alcune situazioni ci sono state e che ci saranno, e anche sul corteo di Sassari. Sì, appunto, ci sarà oggi il corteo a Sassari alle 16, che è il primo corteo il primo grosso corretto che si farà, che si fa per la situazione di Alfredo, ma non sarà sicuramente l'unica iniziativa. C'è il 3 novembre ci sarà un presidio sotto le due torri a Bologna. È stato recentemente interrotto un evento a teatro in cui partecipava Noam Chomsky a Roma, e è stata vandalizzata la sede della RAI a Torino ed occupata quella della RAI a Genova. E inoltre ci saranno il 1 novembre dei presidi al carcere sia di Terni che di Spoleto. E poi, se non mi sbaglio, nell'elenco c'è stato anche l'imbocco di alcuni compagni nella sede di Emergency di Amnesty International a Roma. Va bene, dai, noi ti ringraziamo. È sempre molto complicato in così poco tempo, insomma, cercare di parlare di questa argomentazione qui. Noi proviamo a sfruttare il tempo che ci è concesso anche per far uscire, insomma, la situazione di Alfredo e appunto cercare di rompere quell'isolamento che lo Stato sta provando a creare di intorno. Sicuramente seguiranno aggiornamenti nelle prossime puntate. Noi intanto ti ringraziamo e grazie a voi, sperando di risentirci prossimamente, non solo per fare un elenco di iniziative, ma per avere notizie migliori riguardo lo stato di salute del compagno, che comunque, come già detto, è in sciopero dal 20 ottobre, quindi da più di 10 giorni, ha deciso di iniziare questo sciopero della fame ad oltranza. Va bene, grazie e a presto. Ciao, grazie. Ok, ora continuiamo con un po' di musica, un po' per alleggerire insomma questo discorso, che è molto interessante ma anche molto impegnativo. Continuiamo con una doppietta musicale. Intanto ci sentiamo un gruppo stoner rock californiano degli anni 90. Questi sono i Fumancio, Uretan, tratta dal loro quarto album The Action Is Go. Vai Dyna. It's been hidden away for 50 years. So questions if I make him proper suggestions. Would you find that a risk to your health? And would you put me upon the bookshelf with the books and the plants? Serious, your kisses drive me delirious. If I were kind and adoring, how would that be? Very boring, Mr. Pressman. Sex life, and who with, and how many times? Desperate, but not serious. The kisses drive me delirious. .56, torniamo in diretta a Radio Tagadà, sempre sulle frequenze stream, FM e DAB di Radio Onda d'Urto. Questo era Adamant, Desperate But Not Serious. Adamant, pseudonimo di Stuart Leslie Goddard, è un cantante polistrumentista e attore britannico. Abbiamo ascoltato questo brano, New Wave, tratto dal primo disco Friend or Foe del 1982. Andiamo ora avanti, e avevamo voglia di leggere uno scritto che ci ha particolarmente colpiti durante Brindisi al Futuro, una mostra di 3 giorni che si è tenuta a Revdar il 14, 15 e 16 ottobre scorso. Nello specifico leggiamo il contributo di chi nella mostra ha raccontato ed ha esplicato tramite foto l'immenso rapporto con sua nonna. Il passato c'è, è nitido e vivido. I particolari, i nomi, le vicende sono incise nella mente. Lì sono custodite. Nessuno ci può entrare se mia nonna non vuole. Il passato ritorna in apparenza sconnesso, ma le persone evocate e i luoghi attraversati sono vivi. La memoria li pesca, li taglia, li cuce, come vuole. È un lavoro sartoriale e minuzioso. Con il passare del tempo i tessuti, però, diventano sempre più lassi, laceri. I bottoni si perdono e le cerniere si bloccano, poi a volte ripartono. Ma la sensazione è che il vestito nuovo, quello appena comprato, non esista più. È davvero importante? Sì, perché si ritorna bambini. L'infanzia e la giovinezza sono ricordi forti. Sono state belle, ma estremamente dure. Il passatempo preferito, l'unico accessibile, erano in giri in biciclette per ore con le amiche. Ho corso più io che Bartali. La bicicletta, da un paio d'anni, è ferma in cantina. I copertoni stanno a terra, ma nulla di irreparabile. Solo che la forza per trovare i pezzi di ricambio svanisce sempre più velocemente. Le strade, attraversate ogni giorno per andare al lavoro, al mercato, dai parenti, cambiano incroci e il tempo va, a modo suo. Il presente è sfocato. La lavatrice gira sempre. Lava quello che abbiamo usato, quello che abbiamo sporcato. Ce lo restituisce pulito, profumato, ma in fondo un po' rovinato, consumato, consunto. Il tempo va. Qualche volta la sveglia sembra immobile. Qualche volta siamo già nel 2024. Il passato, il presente e il futuro si mescolano, come nella centrifuga a 800 giri. Il presente è strizzato e sfocato. Ieri serve per fissare l'oggi. L'oggi è ogni giorno e il domani è scritto ieri. Ma rimane sempre domani, con tutte le sue incertezze, con tutta la sua vitalità. My mind is going, I can feel it, I can feel it. My mind is going, I can feel it, I can feel it. Allora, 15.03 in diretta da Milano, Spazio Comune Cuore in Gola, Radio Tagadà. Questi erano i Plastic con I Want You, questo due polacco che ha pubblicato il suo primo album nel 2013 che si chiama Living in the High World. Questi erano appunto i Plastic con I Want You. Torniamo in diretta. Ricordiamo sempre i contatti, se volete potete scriverci su Telegram al 351 5579 698 e alla mail radiotagadà@autistici.org. Siamo anche su Facebook ed Instagram sotto nome di Radio Tagadà. Come detto prima, durante l'epilogo di quello di cui avremmo trattato in puntata, ci apprestiamo a parlare un po' con una compagna che ci racconterà dell'iniziativa che si è tenuta sabato 15 ottobre in piazza Diaz contro il memorandum Italia-Libia. Ciao, ci senti? Sì, ciao, ciao a tutte e tutto, alle persone presenti in ascolto. Grazie alla radio per questo momento di approfondimento che ha voluto costruire. Io mi chiamo Selam, faccio parte del cantiere di Milano e facciamo parte di Mediterranean Saving Humans, una rete di realtà e di piccole realtà del territorio italiano che si sono unite, diciamo, a partire da 2018, anzi alla fine del 2017, quando è iniziata una vera e propria criminalizzazione del lavoro delle organizzazioni non governative che operano nel Mar Mediterraneo centrale, impegnate nel soccorso delle persone che appunto scappano, soprattutto in particolare dalla Libia. Il contesto libico, diciamo, è un contesto che è andato a cambiare negli anni, soprattutto dopo le guerre civili che sono state in parte assolutamente, anzi si potrebbe dire, scatenate da Francia e Italia, ovviamente con il massimo supporto dell'Unione Europea, che erano volte a destabilizzare il paese e in qualche modo a prendere anche possesso della produzione petrolifera, no, del paese, dato che negli anni precedenti la Libia ha tentato, alcuni governo principalmente quello di Gheddafi, aveva tentato di appropriarsi, diciamo, della produzione petrolifera e quindi di escludere così gli accordi presi durante il periodo postcoloniale con appunto l'Italia, la Francia e altri paesi. Quello che è successo sabato 15 ottobre è che, come a Milano, come in Barcellona, Berlino, Berna, Bruxelles, Londra, Madrid, a Napoli, Torino, Zurigo, Palermo, insomma, sono state organizzate iniziative nella giornata internazionale di azione per chiedere l'interruzione del memorandum Italia-Libia. Una giornata organizzata da Abolish Frontex, quindi da una rete che chiede l'abolizione delle frontiere e della rete diritto di migrare e diritto di restare, e da Refugees in Libia, un collettivo di persone che appunto in Libia, in particolare a Tripoli, si organizza e dall'ottobre dell'anno scorso ha iniziato una vera e propria campagna di protesta davanti all'UNHCR di Tripoli, che nonostante abbia condannato la Libia più e più volte per il fatto che trattengono le persone che migrano, in particolare dall'Africa subsahariana, ma non solo, le persone immigrate in Libia in maniera violenta e assolutamente contraria a qualsiasi forma di diciamo trattamento umano delle persone, diciamo che appunto nonostante queste condanne formali poi non succede nulla, e quindi le persone in più, in migliaia, quasi insomma 3.000 di persone sono accampate davanti all'UNHCR di Tripoli. Da quel momento con Mediterranea stiamo seguendo rimanendo in contatto con alcuni degli attivisti, compagni e compagni che sono in protesta davanti all'UNHCR, cercando di sostenerli nella maniera in cui c'è più consono, e quindi anche organizzando dei momenti di mobilitazione in Europa. Il memorandum Italia-Libia che cos'è? Fondamentalmente nel 2012 l'Italia è stata condannata dalla Corte Europea per i diritti dell'uomo per praticare dei pushback, che sono dei respingimenti alle frontiere illegali verso la Libia, nel senso che venivano rispedite in Libia persone che magari provenivano anche da altri paesi, e questa cosa ovviamente era considerata illegale, E quindi per bypassare questa sentenza e insomma questa posizione della Corte Europea per i diritti dell'uomo, si è deciso di fare un memorandum tra l'Italia e la Libia che è stato siglato nel 2017 col governo Gentiloni, con il ministro degli esteri, scusate, il ministro degli Interni Minniti, che in quel momento decisero in sostanza di organizzare il fatto che la Libia stessa operasse attraverso quella che viene chiamata una guardia costiera illecita, nel senso che non è veramente una guardia costiera governativa, nel senso che al momento in Libia non c'è la stabilità e non c'è un governo effettivo centrale, ma ci sono diverse milizie che controllano alcune aree della Libia. Quindi diciamo che la milizia più vicina all'Italia ha deciso di organizzare questi respingimenti illegali. Quindi le persone che partono oggigiorno dalla Libia si ritrovano ad arrivare anche in acque territoriali italiane o maltesi e comunque a subire attacchi da parte di vedette e di questa milizia libica che agisce sul controllo delle coste. L'Italia garantisce quindi un supporto tecnologico, garantisce un supporto economico che viene poi investito in appunto, controlli ai confini, ma soprattutto in quelli che vengono chiamati dei veri e propri campi di concentramento. A definirli così sono state organizzazioni come Amnesty International, ma anche la stessa UNHCR, l'organizzazione anche internazionale per la migrazione, quindi insomma è una cosa abbastanza assodata. Il problema è che cosa si fa? Il memorandum garantisce l'esternalizzazione del confine, l'abbiamo visto fare anche con la Turchia, ma anche con alcuni paesi dei Balcani, questo avviene, no? Con la promessa che appunto l'Unione Europea fa in termini economici, ma anche in termini di accordi commerciali e politici di lungo periodo e spesso e volentieri garantisce a questi paesi di agire diciamo nei confronti di minoranze oppure di agire lontani diciamo dalla tutela dei diritti umani proprio perché garantisce un contenimento della migrazione. Quindi dal 2017 abbiamo 50.000 persone che sono state prese dal mare e riportate in Libia e di fatto intercettate, catturate e rinchiuse in questi campi di concentramento. Quello che appunto le persone che protestano davanti, che hanno protestato davanti all'UNHCR per centinaia di giorni, dicevano era che la Libia non è un luogo sicuro, quindi è un luogo da cui l'UNHCR dovrebbe portare via le persone, non trattenerle. Soprattutto perché appunto questo ciclo costante, no, per cui le persone più e più volte provano a partire dalla costa libica e poi vengono ripescate e riportate in Libia, è fatto di torture, stupri, schiavitù, fame e anche morte. Quindi, insomma, quello che noi in Italia dobbiamo chiedere è che l'Italia di fatto smetta di addestrare, no, la Guardia Costiera, appunto queste milizie libiche, a fare quello che di fatto i trafficanti di esseri umani, cioè nel senso l'Italia è assolutamente collusa e soprattutto non sappiamo ancora quanti sono i milioni di euro che sono stati investiti in queste operazioni da parte del governo italiano e da quello libico. Inoltre, appunto, sappiamo che in Libia non è stata ratificata la Convenzione di Ginevra, che in parte può voler dire qualcosa, in parte può voler dire nulla, ma che sicuramente non permette alla Libia di essere portata davanti ad alcuni organismi internazionali, anche se sappiamo che ovviamente non sono di certo quelli che rappresentano i diritti delle persone che vengono trattenute ai margini del sistema. Quello che succederà il 2 novembre, quindi tra pochi giorni, è che in automatico il memorandum Italia-Libia verrà rinnovato, cioè non servirà una votazione del Parlamento italiano, anche se sappiamo che dato il Parlamento che ci ritroviamo ad avere, sarebbe stato sicuramente un voto a favore di questo memorandum. Il problema principale è che per 3 anni verrà in qualche modo rinnovato in automatico. Le persone che appunto cerchiamo di sostenere, dicono qualcosa di molto chiaro che potete trovare sul sito Refugees in Libia, che è un sito che viene scritto in lingua inglese, ma che potete, dove esiste, dove sono state caricate delle informazioni quotidiane, dove potete trovare i social su cui trovare video e informazioni, dove trovate il manifesto politico e dove potete trovare il modo di donare a questa organizzazione politica. E il manifesto politico, secondo me, è molto, molto chiaro ed è molto importante. Una frase che a me ha colpito, è questo: abbiamo lasciato la nostra casa, cercando una seconda chance per la nostra vita, prima ancora di arrivare in Libia. In Libia, siamo diventati la forza lavoro nascosta dell'economia di questo paese. Posiamo mattoni, per costruire case libiche. Ripariamo e laviamo auto libiche, coltiviamo e piantiamo frutta e vegetali per l'economia agricola libica e per le tavole libiche, per le cene delle persone libiche. Montiamo satelliti su tetti per i televisori delle persone che vivono in Libia. Eppure, questo non è abbastanza, quindi essere una forza lavoro invisibile non è abbastanza per le autorità, hanno voluto di più, hanno voluto il controllo totale dei nostri corpi e della nostra dignità. E quindi questo è quello che abbiamo trovato arrivando qua, abbiamo trovato un incubo fatto di torture, di stupri, di estorsioni, di arresti arbitrari sotto un sistema che si fonda e che viene, che si alimenta e che viene finanziato dai paesi europei. E quindi questo è stato il desiderio delle persone che in questo momento stanno protestando in Libia, attaccare il memorandum Italia-Libia. E per questa ragione il 15 ottobre, ma continueremo ovviamente, adesso c'è stata un'assemblea tra appunto Abolish Frontex, alcune realtà italiane ed europee e Refugees in Libia. Non è facile ovviamente fare delle assemblee perché non sempre c'è la stabilità di connessione e anche la possibilità di non essere ascoltati. Rischiamo oltretutto che molte delle persone che sono coinvolte in questa battaglia a partire dalla Libia rischino ovviamente delle detenzioni arbitrarie. Però sicuramente è importante dare spazio alle priorità e all'agenda politica che viene decisa all'interno di quello che è il contesto di lotta libico. Ok, perfetto, sei stata abbastanza completa ed esaustiva. Noi ti ringraziamo. Interessante il contesto nazionale ed internazionale nel quale si collocava appunto l'iniziativa del 15 ottobre. Come hai detto tu, ci sarà a novembre questa eventuale insomma, decisione da parte del Parlamento. Hai detto che col governo che ci ritroviamo, probabilmente ci sarà. Cioè, sicuramente un'adesione o un rinnovo riguardo il memorandum. Ricordiamo che comunque questo memorandum è entrato con un governo di centro-sinistra, quindi sottolineiamo sempre che poi a conti fatti tra centro-sinistra e centro-destra su alcune pratiche, alcune logiche cambia poco, anche perché i CPR all'epoca e i CPT li hanno inventati insomma nel 98 il governo di centrosinistra. E ci risentiremo prossimamente se ci saranno altre iniziative a riguardo. E noi ti ringraziamo e ti mandiamo un grosso abbraccio. Grazie mille, grazie Ok, tante. Alla prossima. Ciao. grazie, a presto. Ciao, ciao, da Radio Tagadà. Allora, ora continuiamo con la diretta. Ci sentiamo questo gruppo che non ha bisogno di tante presentazioni. Nascono nella metà degli anni 60 nel Regno Unito e durante la loro carriera trentennale, caratterizzata da costanti esperimenti sonori, grafiche innovative, testi di matrice filosofica e sofisticate esibizioni dal vivo, diventano una delle band più influenti della storia della popular music. Ovviamente stiamo parlando dei Pink Floyd e del loro prog rock. Il DJ mi dice di aggiungere grandissimi Pink Floyd, scusami, mi ero dimenticato questo aggettivo. Proprio l'altra sera a cena con una compagna si parlava degli album preferiti dei Pink Floyd. Approfittiamo per salutarla, sperando che sia in ascolto, e alla fine rientravano tutti tra i preferiti i loro album, perché non se ne veniva a capo. Appunto perché ognuno di questi album è particolare e autentico a modo proprio. Il nostro DJ oggi ha scelto per noi Young Lust, tratta dall'album The Wall del 79. Vai Dynamite con i Pink Floyd. Allora, leggermente in ritardo sulla scaletta, partiamo con tutto lo sport popolare minuto per minuto, proseguiamo a darvi gli aggiornamenti delle squadre di sport popolare milanese e non che abbiamo deciso di seguire quest'anno su Radio Tagadà. Allora, gli ultimi saranno i primi, partiamo appunto da dove avevamo terminato l'altra volta, dalla Dal Pozzo. La prima squadra dei gialloverdi domenica scorsa ha pareggiato 2-2 contro il San Giorgio, mentre questa domenica si va in trasferta ad Arese contro il San Giuseppe. Notizia importante per chi sa cos'è successo negli anni passati contro la tifoseria dell'Arese. Per la CSI invece, che gioca a 7, sconfitta giovedì sera 3-1 contro l'Altopiano. E la prossima in casa si gioca contro l'Amor Sportiva. Dalla provincia alla città andiamo dalla capolista del girone P della seconda categoria, il Partizan Bonola, la squadra che gioca in FGC appunto, ha pareggiato in casa 1-1 col Pero, ma mantiene la prima posizione e domani alle 2:30 va a fare visita al Fatima Traccia. Il CSI invece, che gioca ad 11, nella puntata precedente erroneamente avevamo detto che le squadre del Partizan Bonola e della Sant'Ambrose maschile di CSI giocavano ad 11, a 7, scusate, giocano ad 11. Comunque dicevamo, il CSI ha avuto due impegni questa settimana, entrambi vittoriosi, 3-0 col Vittoria e 3-2 con il Colmac, e la prossima la giocheranno ad Assago il 7 novembre. Quindi questa settimana che viene riposano. Rimaniamo a Bonola, sponda rosa fluo femminile, appunto parliamo del CSI, del girone CSI femminile calcio a 7, che vede tra l'altro impegnate nello stesso girone anche la Sant'Ambrose e l'Ardita. le ragazze del Partizan hanno pareggiato con il Fatima Traccia e gli facciamo un in bocca al lupo, perché oggi alle 17 sfideranno l'Assisi in trasferta al campo sportivo di Via dell'Usignolo 1 a Milano. Questa settimana la femminile dell'Ardita ha riposato e invece rilanciamo il derby dei quartieri popolari tra Giambellino e Barona, che avrà luogo il 3 novembre alle 22 in casa nel fortino di Piazza Tirana, Forza Arancionere. Un po' di calore anche ai maschietti, che ne prendono 7 dalla Virtus Sedriano nella categoria calcio a 7 CSI. E invece il 4 novembre andranno a trovare l'Atletico Milano Dragons. Chiudiamo con gli aggiornamenti da Via Becchi 2. A Gorla, appunto, la Sant'Ambrose femminile ne ha prese 4 dall'Assisi questo mercoledì e questa settimana riposerà. Male purtroppo anche le altre due squadre di calcio. La prima squadra in FIGC ha perso 2-0 in trasferta contro l'Orpas e proverà a rifarsi in casa contro Pala 1, mentre il CSI ad 11 ha perso 5-0 contro i Kids United e andrà alla ricerca dei 3 punti contro il Lambrate, sempre in casa. Speriamo che settimana prossima gli aggiornamenti per la Sant'Ambrose saranno migliori. Dal calcio al rugby, chiudiamo appunto questa parentesi di calcio popolare, parliamo della Stella Rossa Rugby Milano. La squadra Wisp ha battuto nel derby tiratissimo la SR 22-13, una vera e propria battaglia, con tanto di infortuni alla clavicola per il numero 14, l'ala aperta. Paolino, non mollare, siamo tutti con te e rimettiti presto. Speriamo che non si debba operare il ragazzo che ha subito infortunio. Invece Spondafir per la Stella Rossa Milano Rugby. Ancora tutto tace per quanto riguarda la Coppa Italia Regione Lombardia. Ricordiamo che la FIR femminile a 7 della Stella Rossa è l'unica squadra iscritta e se dovesse continuare così entro il 13 novembre avranno vinto il primo titolo. Ci sarà invece questa domenica un allenamento misto con a seguire una partitella a Como per le Girls di Gorla. Dallo studio è tutto, Lina Daina con i Depeche Mode. Well, Allora, 15.33, Radio Tagadà, aneddoti di strada, musica e cronache di regime. Prima abbiamo sentito e ascoltato i Depeche Mode con Useless, brano del 97 tratto dall'album Ultra. Invece questa canzone era Rich dei Yeah Yeah Yes, trio alternative rock che nasce nel 2000 a New York. Questa traccia invece era tratta dall'album Fever to Tell. Come detto, torniamo in diretta e spazio alla rubrica delle notizie stravaganti del web che abbiamo provato a trovare per voi. Magari vi piacciono, magari no, ma a noi poco interessa. Allora, De Senzano sul Lungolago, due fratellini di uno di 6 e uno di 7 anni, hanno trovato uno strano sasso e vanno dal nonno e gliel'hanno dato. Per fortuna non si è fatto male a nessuno, ma a quanto pare quel sasso era un ordigno inesploso della Seconda Guerra Mondiale, nello specifico una bomba a mano, un bell'occhietto per i nipoti. Ad Ancona invece, questo ce l'ha segnalato il DJ come al solito, vodka party in classe durante la ricreazione alle scuole superiori, i ragaz che hanno girato anche un video pubblicandolo sui social, e su questo facciamo un appunto: questi social fossero usati meglio non si verrebbe sgamati quasi mai quando si preparano le marachelle. Comunque c'è stato appunto questo vodka party con tanto di video annesso e postato su Instagram da parte degli autori, e risultato c'è stata una raffica di sospensione dai 15 ai 3 giorni e la classe è stata dimezzata. Di sicuro siamo più contenti però di raccontare queste notizie riguardo l'istruzione rispetto alle cariche in università a Roma che ci sono state per difendere i fascisti di Fratelli d'Italia durante una loro iniziativa, o ad esempio riguardo la notizia dell'imbocco della polizia a Parma in una scuola superiore dove è stato immobilizzato in maniera esagerata uno studente per un controllo. Ricordiamo che tra l'altro la notizia di ieri sera, la facoltà di scienze politica a Roma è stata occupata dopo le cariche. Finiamo come al solito con Saronno, perché a quanto pare il giornale di Saronno ci regala sempre grandi emozioni, il giornale locale di Saronno, sempre grandi notizie dalla cittadina in provincia di Varese. Praticamente hanno tentato di rubare un barboncino ad una dog sitter, ma un passante è riuscito a bloccare il furto o la rapina, questo non lo so, poi vedranno gli inquirenti insomma se definire questo tentativo di furto, tentativo di rapina, cioè il barboncino. Se ti rubi un barboncino è rapina o furto, Daina, tu che dici? Lui dice che è rapina, probabilmente, vediamo. Eventi sconsiderati e scellerati, sempre grandi emozioni. Sempre a Saronno una donna ubriaca al volante si è schiantata contro un palo e il marito, non si sa per quale motivo effettivamente, ha provato a salvarla cercando di fare l'alcol test al posto suo. Questo è il livello di comunicazione che esce dai mass media saronnesi. Logicamente continueremo a seguire il giornale locale di Saronno. E non chiudiamo con una buona news, anche se poi la situazione è un po' più complessa di quello che esce. A Macerata un ragazzo è scappato da scuola ed è andato ad allagare i bagni del tribunale della provincia marchigiana. A voi l'analisi. Ora ci sentiamo un po' di musica con Mobby e poi torniamo in diretta con Radio Tagadà. Let me tell the news. My head got wet in midnight dew. Great Lord, I've been down on my bended knees, talking to a man from Galilee. Michael spoke and he sounded so sweet. I thought I heard the shuffle of angels' feet. He put one hand upon my head. Great God Almighty, let me tell you what he said. Go tell that lonesome liar. Go tell that midnight rider. Some people go to church just to signify, trying to make a date with the neighbor's wife. Brother, let me tell you, just as sure as you're born, you better leave that woman alone. Go tell that lonesome liar. Go tell that midnight rider. Tell the devil and the rambling backside.

A 15:54 siamo addirittura d'arrivo, ci scusiamo prima per dei problemi tecnici che ci sono stati durante l'intervista, comunque era in diretta da una manifestazione, quindi questo è sempre bello della diretta. Questa era Set It Off degli Strafe, gruppo electro old school americano che ha guadagnato popolarità a metà degli anni 80, appunto il suo singolo principale, Set It Off, l'abbiamo ascoltato ora. È stato anche campionato da artisti pop, house, techno e dance. Come al solito, prima di lasciarci, parliamo un po' delle iniziative che ci saranno a Milano. E partiamo dall'iniziativa che c'è, appunto dall'iniziativa di prima, dove erano in diretta le ragazze. 29 ottobre join the human chain a link to Iran Revolution, the time has come. L'appuntamento era alle 3 a Piazza Castello a Milano. Ricordiamo che ci sarà anche sempre un corteo di cittadina alle 3 che partirà da Piazzale Loreto, banda assegnazione alle illusioni, coordinamento per l'organizzazione e la lotta. Questo corteo è partito appunto alle 3 da Piazzale Loreto a Milano. Sempre stasera a Saronno ci sarà un'altra notte hardcore con Serpenseno, Zona Infinì, Randaggi United e Garden of the Groove, organizzato dal collettivo Adespota a Saronno, e sarà una TAZ, quindi le info arriveranno in serata. Potete seguire la pagina Facebook del collettivo Adespota. Sempre invece nel pomeriggio a Saronno alle 3:30 Piazza Avis ci sarà l'assemblea pubblica Noi non paghiamo, le vostre bollette, la vostra crisi, la vostra guerra. Durante l'incontro verranno forniti materiali informativi di noinonpaghiamo.it e supporto pratico a chi si sta già trovando in difficoltà in caso di pioggia. L'incontro si svolgerà presso l'auditorium Aldo Moro in Viale Santuario a Saronno. Questa iniziativa organizzata dall'Assemblea Saronnese contro il caro vita. Ricordiamo che in Fornace vanno avanti le iniziative del Teatro della Fornace, e domani ci sarà Bozzoli di Creature Ingrate con Silvia Torri e Rita Giacobazzi. Gli inizio dei spettacoli presso la SOS Fornace di via Risorgimento 18 a Rho inizieranno alle 21:30. Ricordiamo che questo fine settimana, anzi domani e lunedì, ci sarà la Tatuga Leone Benefit a Lecco in via Primo Maggio, Rione Malavedo. Alle ore 11 ci sarà l'inizio con bar e cucina a prezzi popolari, e poi ci sarà anche un concerto domenica 30 dalle 6, con tra l'altro suoneranno anche Io Stile. Il 31 lunedì sera ci sarà invece l'Halloween Party in GTA con svariati gruppi: Mordax, Spaccastronzi, Io Stile, My Own Voice, e poi DJ Set, Scappe, Los Tres Monos, poi DJ Lara che chiuderà con la sua Techno Trash From Tomorrow la serata al GTA. Il 1 novembre ci sarà una castagnata contro gli sgombri dalle 15 in piazza Angilberto. Durante la giornata torneo di ping pong, mostra sulla riqualificazione, castagne, vin brulè, birra amari. Come detto, ci saranno un po' di iniziative del gruppo Donne, Vita e Libertà che si stanno seguendo la resistenza in Iran. La settimana prossima ci sarà il corteo in collaborazione con Genova e Torino, e poi vabbè, il 20 novembre la serata al CSA Baraonda. Sempre lunedì 31 ottobre ci sarà la Terra Trema in Villa Occupata con vari gruppi che suoneranno, tra cui Eterno Ritorno, The Bad Plug, Narcan, Spirito di Lupo, Algara e poi DJ Set. E chiudiamo settimana prossima parlando dell'assemblea pubblica della NATO tra l'Europa dell'Est e la Scandinavia. Ne parliamo con Jet Kroman, militante del Partito Socialista danese. Venerdì 4 novembre dalle ore 8:30 presso la libreria Calusca in via Conchetta 18. E ricordiamo sabato l'appuntamento di Insorgiamo a Monza contro crisi climatica, sociale ed economica. Il concentramento a Piazza Castello alle 2:30. Noi siamo quasi al termine della diretta dal cuore in gola. Ricordiamo che alle 4 noi apriremo lo spazio comune Cuore in Gola e ci berremo delle birrette che andranno benefit di autofinanziamento per Radio Tagadà. Siamo un po' in ritardo sulla scaletta, presentiamo l'ultima traccia, non so se riuscirete a sentirla in radio, in FM o in streaming, e comunque chiudiamo con i Chemical Brothers, Another World. Vai Dyna, ci vediamo e ci sentiamo sabato prossimo sempre dalle 2:30 alle 4 su Radio Onda d'Urto, e salutiamo anche i compagni e le compagne dello spazio approfondimenti di Radio Onda d'Urto che andranno in diretta dopo di noi. A sabato prossimo. We'll be right back.